cosa indossava? Sono stufa della domanda, come era vestita? Fammi vedere l'uomo accasciato sul bancone con un proiettile in testa, vestito come uno che merita di essere ucciso. Dimmi se la bambina di 6 anni aggredita in chiesa se l'è cercata, o la ragazza violentata nella palestra sembrava una sgualdrina in quei pantaloni della tuta? Quale vestito estratto da quello scaffale può prevenire un attacco, una violenza? Dimmi il negozio e io ci torno e compro i vestiti giusti, ora. Dimmi l'abito che impedisce lo stupro. Vedi, io non ho capito. Non ho capito che avrei potuto comprare una maglietta che dice io merito di essere colpita. Vedi, le tue esigenze vengono prima. Dopotutto sto indossando una gonna stretta invece di un vestito a prova di assalto e mi accorgo che tu hai il giubbotto a prova di errore. A quanto pare non ho detto no abbastanza forte quanto i miei vestiti potrebbero dire di sì. Vedi, io non sapevo che il mio no non è stato sufficiente. Non ho capito che il mio corpo è diventato meno prezioso a causa di alcuni abiti che mi hanno fatto apparire provocante. E credo che se indosso il top sbagliato, allora il mio sì è lo stesso che il mio stop. E tu non devi, proprio perché te lo dico io, solo perché ti ho implorato di non... Io te lo chiedo, dimmi qual è il vestito magico e lo comprerò. A quanto pare il mio no non è stato sentito, anche quando ho gridato. Ho bisogno dei miei vestiti per essere tranquilla. Questo è un brano pubblicato sul blog della All Indian Progressive Women Association for a Women's Movement with a Revolutionary Left Orientation, ovvero l'associazione Tutte le donne progressiste dell'India per un movimento delle donne con un orientamento rivoluzionario di sinistra. Cosa indossava? Appunto, rabbia e lotta delle donne indiane. A migliaia in India le donne, e non solo le donne, stanno scendendo in piazza ormai da quasi un mese, da New Delhi ad altre città indiane, contro gli stupri, a seguito dell'ennesimo brutale stupro avvenuto il 6 dicembre, quando 6 uomini hanno violentato una giovane donna di 23 anni, una studentessa, e l'hanno di fatto anche uccisa, l'hanno ridotta in fin di vita. Lei è morta 2 settimane dopo le brutali violenze a seguito delle lesioni interne provocate dallo stupro, appunto, da parte di un gruppo di uomini che hanno anche usato una sbarra di ferro per infierire durante la violenza. Si sono succedute tantissime manifestazioni davanti ai palazzi del potere, davanti alle questure, che accusano le autorità e le forze di polizia di ignorare o essere complici delle violenze subite dalle donne in qualsiasi età e in qualsiasi livello sociale, dalle violenze dentro le case alle molestie sui luoghi di lavoro, alle aggressioni, agli stupri, alle uccisioni, mantenendo a livello sociale uno stato di cose che permette una pesante condizione di oppressione delle donne. Fra i tanti striscioni che le donne hanno portato in piazza, molti riportano scritte come: non diteci come dobbiamo vestirci, dite a loro di non stuprarci. E a seguito di questa attenzione, di questa grande mobilitazione delle donne, delle studentesse, del movimento studentesco tutto, ma anche di tanti uomini, sono emerse poi nei giorni successivi tante altre violenze contro donne e giovani donne in India. Una donna di 45 anni è stata violentata e uccisa da 8 uomini nella città di Basarat. Nella notte di Natale un uomo ha tentato di stuprare e poi ha ucciso la cognata di 23 anni. La ragazza è morta dopo 4 giorni di agonia. C'è stata la notizia di una violenza sessuale su una bambina di 7 anni. Una giovane ragazza di 17 anni è stata sedata e poi violentata durante il veglione di Capodanno da un gruppo di uomini. Un parlamentare, un deputato, Bikram Singh Brahma, è stato accusato di aver violentato una donna nella provincia di Assam. Udendo le urla, le abitanti e gli abitanti dell'area sono intervenuti e l'hanno catturato. C'è un video che fa vedere le donne che lo circondano, gli strappano gli abiti e lo prendono a schiaffi. Una giovane si è buttata dal treno in corsa nello stato indiano settentrionale di Bihar per scappare a un uomo che la molestava. Lei è in ospedale, lui, l'aggressore, è un militare. Le manifestazioni non si fermano, donne e uomini continuano a scendere in piazza a migliaia da giorni. Le TV hanno mostrato manifestazioni spontanee che quando si sono avvicinate ai palazzi del potere sono state brutalmente bloccate, represse dai manganelli della polizia, lacrimogeni, cannoni ad acqua, blindati. E quindi il governo continua ad usare la polizia per reprimere le manifestazioni, o per impedire che arrivino vicino ai palazzi governativi di New Delhi. E dall'altra parte il governo promette più polizia nelle strade, controlli sugli autobus privati, misure di sicurezza, ma in realtà si tratta di due facce della stessa medaglia. In India, come in tutto il mondo, come lo sappiamo bene a casa nostra in Italia, l'aumento dei poliziotti e l'aumento delle leggi securitarie contro gli stupri e i femminicidi non sono la soluzione, ma sono parte determinante del problema di uno Stato che vuole tenere le donne in una condizione generale di oppressione, di discriminazione e che alimenta l'odio verso le donne. Dovremmo sentirci più sicure in uno stato di polizia, dice la giornalista indiana Kalpasa Sharma. Considerate che tra l'80 e il 90% delle violenze sessuali denunciate sono attribuite a un uomo noto alla vittima, un parente, un vicino di casa, un amico di famiglia, e sono proprio i poliziotti che alle donne che denunciano queste violenze rispondono, come è accaduto poco tempo fa in India, o di stare zitte e addirittura di accettare il matrimonio riparatore con lo stupratore, o attaccando le donne stesse perché loro avrebbero provocato uscendo la sera o per come andavano vestite. Le donne dovrebbero sentirsi più sicure con l'aumento della polizia nelle vastissime zone dell'India, fuori dalle mega città e soprattutto nelle zone dove è in corso la guerra popolare, gli stupri di contadine, di donne fuori casta da parte della polizia, delle forze militari sono una normalità. Lo stupro e l'uccisione da parte dell'esercito delle donne, gli stupri che accompagnano sempre le torture quando vengono arrestate, sono un'arma costante della feroce guerra dello Stato indiano. Anche in Italia conosciamo fin troppo bene le violenze, gli abusi sessuali della polizia, dei carabinieri che accompagnano la repressione con odio verso le donne, che lottano con odio verso le immigrate nei CIE, nelle carceri. Decine e decine sono i casi che i movimenti delle donne hanno denunciato. La presenza maggiore della polizia non ha mai significato più difesa delle donne, perché essa si rivolge immediatamente contro le donne, con più controlli, più divieti, più città militarizzate e invivibili. Non è questa la sicurezza che vogliamo. Le donne, quindi, continuano a scendere in piazza sempre più incazzate. Contro le violenze sessuali che vengono denunciate in questi giorni in India, il governo, inoltre nel sud del paese, ha deciso di introdurre l'uso obbligatorio per le studentesse di un soprabito. Da qui il testo che abbiamo letto all'inizio dell'Associazione delle Donne Indiane, che è assolutamente contrario, in quanto, lo sappiamo bene, l'abbigliamento non ha nulla a che vedere con gli stupri. Inoltre, le ragazze, secondo il ministro dell'istruzione, dovranno muoversi in autobus di loro esclusivo uso e nelle scuole sarà proibito utilizzare telefoni cellulari. Mentre il mondo si indigna per l'inciviltà a cui assistiamo in India, in Italia un parroco affigge fuori dalla chiesa un volantino in cui dichiara che il femminicidio è colpa delle donne, che invece di stare a casa se ne vanno in giro a provocare. E mentre il mondo riflette, vieta i cellulari, affigge volantini misogini, vieta cortei e così via, le donne continuano a doversi difendere da sole, ognuna per sé, se non vogliono morire.